situazione, come tutti sanno, è che il DPCM, parola che abbiamo imparato a conoscere bene in questi mesi, dice che l'attività è chiusa fino al 24 di novembre. Poi aspettiamo notizie, insomma. Sì, il problema per noi, ovviamente, come per tutti i teatri, è che la nostra attività è da sempre programmata con ampio anticipo, cioè le programmazioni dei teatri sono sempre in prospettiva di mesi, a volte anche di anni, tant'è vero che, non so, le sovvenzioni anche del Ministero, della Regione, spesso sono date sulla base di progetti triennali addirittura. In questo momento, come ben si capisce, tutto quello che tu fai, che programmi, vuol dire, può avere una prospettiva temporale, insomma, di qualche decina di giorni, poi a volte anche meno, perché chiaramente era stato emesso un decreto il 13 ottobre che prorogava i termini di quello precedente. Con le stesse normative c'è la possibilità di fare gli spettacoli col distanziamento sociale previsto dalle normative, poi il 25 è stato emesso un altro, con cui sono passati dal 13 al 25 12 giorni. Diciamo che l'arco temporale di prospettiva di programmazione è questo, insomma, una settimana, due settimane, eccetera, che, come posso dire, diventa molto penalizzante per noi, però bisognerà adattarsi a questo. Come dicevano i vecchi bolognesi, bisogna legare il cane dove vuole il padrone in questo caso. Certo, giustamente, un detto perfetto. Sì, il concetto è chiaro. Certamente è anche corretto il discorso che la salute è la priorità assoluta, questo ovviamente siamo d'accordo tutti quanti. C'è da dire, probabilmente, come qualcuno ha anche rilevato, che da marzo ad ora sicuramente è stata raccolta una grande mole di dati sulla diffusione del contagio e certamente questi dati avrebbero potuto dare la possibilità, io suppongo, ragionando, poi magari mi sbaglio, di fare delle chiusure più mirate, cioè massa di dati raccolti da quando è iniziata la pandemia ad oggi, si sarebbe potuto tentare di fare delle chiusure più mirate, cioè verificando, ammesso che i dati lo consentono, io credo di sì, quali sono, diciamo, i luoghi più pericolosi per il contagio, per un termine magari anche un po' eccessivo, e certamente tra questi non ci sono i teatri, però capisco che diventa anche difficile fare delle scelte di un certo tipo, insomma bisogna che ci adattiamo a questa cosa. Certamente, al di là della giustezza o meno dei provvedimenti, è chiaro che per il nostro settore è veramente un momento molto difficile, non solo per il nostro ovviamente, per tanti, ma insomma per il nostro in modo particolare, perché non è solo un problema dei teatri come luoghi fisici che ospitano degli spettacoli, è il problema in generale del settore dello spettacolo, anche di chi lo fa, delle compagnie che poi non hanno i luoghi in cui proporre gli spettacoli, degli attori che non lavorano, dei tecnici che non lavorano, tutto il mondo che ruota intorno a questo settore che è già da mesi e mesi, insomma, è veramente in enorme difficoltà. Eh sì, forse rimedi noi non ne riusciamo a trovare, ecco, il rimedio sarà il vaccino. Però non è di competenza nostra trovarlo. Certo. Diciamo così. Diciamo che il vostro slogan rimane comunque: il teatro si ferma ma non muore. Siete speranzosi? Ma sì, siamo speranzosi, insomma il teatro esiste da migliaia di anni e speriamo che continui ancora per un po'. Certo, sì, sicuramente qualcuno resisterà, però come in tutti gli altri settori ci sarà anche chi non ce la farà, questo è inevitabile. Però certo, il teatro come forma d'arte, come forma di comunicazione non andrà a finire con il Covid-19, però per molte realtà è veramente difficile, molto difficile riuscire a sopportare questa cosa, perché chiaramente a noi l'attività è proprio cessata, è chiusa, per cui tu passi a incasso zero, poi ovviamente ci saranno gli aiuti, i ristori, beh, ma non è che si può andare avanti così indefinitamente, prima o poi bisognerà tornare ad avere la possibilità di lavorare, di incassare in maniera regolare, ecco, altrimenti non si capisce bene quale possa essere la prospettiva. Noi siamo, da quel punto di vista lì, siamo fiduciosi che questo succeda, dipende anche i tempi entro i quali questo succederà, perché insomma c'è un limite di resistenza, che è un difetto degli esseri umani come mammiferi, è di mangiare preferibilmente tutti i giorni. Cioè noi assumiamo cibo, che è una forma di energia ordinata, ed emettiamo calore, che è una forma di energia disordinata, secondo il principio della termodinamica, tutti dobbiamo fare così. E mangiamo noi, mangiano gli operai, mangiano gli impiegati, mangiano i politici, mangiano i guru, mangiano tutti, anche quelli che dicono di non mangiare. Per mangiare bisogna guadagnarsi il cibo, e di solito il cibo viene guadagnato col lavoro. Se uno non ha la possibilità di lavorare, si trova in difficoltà, al di là dell'attività che svolga, ovviamente. Certo. Per cui è un grosso problema, ma cercheremo di superarlo. Diciamo che noi, dal nostro punto di vista, abbiamo, non dico la fortuna, ma insomma siamo tutti in regola, eccetera, per cui superiamo degli ammortizzatori sociali, però per molti anche questo non è possibile, perché il mondo dello spettacolo, insomma, è anche fatto di situazioni molto particolari, anche al limite, diciamo, delle normative, della norma di gente che lavora così, un po' in nero, tanto per essere onesti, è così, e per molti è impossibile accedere agli ammortizzatori sociali, ovviamente, lavorando non in regola, e c'è anche questo da valutare, chiaramente. Ecco, questo non dovrebbe succedere mai, ma purtroppo succede, insomma, è nel nostro settore in maniera abbastanza consistente, purtroppo ci sono molte persone per le quali non poter lavorare vuol dire proprio andare a zero col reddito, perché non potendo accedere nemmeno agli ammortizzatori sociali diventa proprio difficile la sussistenza. Adesso non voglio essere drammatico, ma la situazione è questa, oggettivamente. Eh sì, la situazione purtroppo è difficile, ma come dire, rimaniamo anche noi speranzosi e prima o poi, insomma. Sì, soprattutto sì, insomma, attivi. Infatti noi stiamo già pensando come fare, cosa fare, come programmare, insomma, quando ci sarà consentito per fare gli spettacoli, a parte che adesso i teatri si trovano a dover gestire il discorso degli spettacoli annullati, degli eventuali rimborsi, degli eventuali recuperi che si accumulano con quelli già che dovevamo fare per quello perso, diciamo, tra marzo, aprile, maggio, eccetera, per cui diventa una massa di attività da recuperare, di eventi da rimettere in programmazione piuttosto consistente, ecco, è anche abbastanza difficile da gestire. Io la ringrazio per questo approfondimento sulla situazione del teatro in Italia qui a Bologna. Grazie ancora. Grazie a voi.